ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Su, via, dai che ce la facciamo, prende vita questo quadro! Si può fare! Mascotte, scusa, ma cosa si può fare? Il quadro? Cioè, la mascotte ha iniziato a dipingere su tela, adesso è impazzita. Si può fare? Sì, è vero, si può fare, effettivamente. Però, mascotte, scusa, non è che chiudi la porta così... Cioè, come? Mascotte? Scusa? Non c'è più, non risponde più. Vabbè, come tutti gli artisti, niente. Vabbè, l'abbiamo persa per oggi. No, non lo so, chissà, chissà, magari riapparirà. Allora, si può fare è assolutamente l'inizio di questa puntata, perché questa è la puntata del 25 aprile. Visto che oggi è mercoledì 24, domani siamo tutti pronti a festeggiare. Festeggiare una giornata che per noi di dedicato... direi che è una delle più importanti dell'anno e assolutamente è un periodo storico che ci piace ricordare, che ci piace raccontare ai nostri giovani e cuccioli, quindi eccoci pronti per la puntata antifascista del 25 aprile. Evviva! E si può fare! Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per bacco, che sventoli. Gli Schiantos con Fischia al vento, grazie Frick Anthony, sempre, grazie davvero. Bene, torniamo a noi e a questa puntata dedicata al 25 aprile, perché noi ci siamo fatti un giro al mercato di Campi Aperti che si tiene il giovedì pomeriggio sotto la tettoia Nervi, quella che adesso è denominata Piazza Lucio Dalla, ma a noi piace ricordare come tettoia Nervi. Campi Aperti è un'associazione di piccoli produttori del territorio e mercati biologici contadini. È una comunità ecologista, inclusiva e devo dire solidale, che lotta per l'ambiente e il rispetto della terra e delle persone. Quindi sosteniamo Campi Aperti, ne approfitto perché sono veramente amici, compagni di una vita. Il mercato di Campi Aperti del giovedì oltretutto è nato all'XM24 con noi, con un percorso veramente costruito passo dopo passo insieme, quindi ci tengo, e ci tengo anche a dirvi che se volete potete donare il 5 per 1000 a Campi Aperti per sostenere le loro attività. Quindi potete scrivere a info@campiaperti.org per avere informazioni, per donare il vostro 5 per 1000. Tornando alla nostra puntata, invece, ci siamo quindi fatti un giro per il mercato di Campi Aperti del giovedì pomeriggio e abbiamo parlato del 25 aprile con un po' di persone e personaggi. 25 aprile è il vero inizio della primavera, ovvero la rossa primavera che tutti stiamo sperando da almeno 200 anni, che prima o poi arriverà, in un mondo meraviglioso, cosparso da... L'età è un po' strano, ma noi siamo iperottimisti, per cui mi sembra giustissimo festeggiare il passato, il presente e il futuro di lotte meravigliose, di gioie infinite, di rivoluzioni mai dome. E lo faccio per mio nonno che era partigiano, di cui porto orgogliosamente il nome, lo faccio per me stesso, ma lo faccio soprattutto per i miei figli. Grande, grazie. Per ricordare le fatiche dei nostri nonni che ci hanno liberati dagli invasori fascisti. In una Bologna un poco oscura, la bolognina cantava sicura, un canto popolare, dove tutte le etnie andavano a socializzare, l'arcobaleno a abbracciare, la cultura un trionfare. In una Bologna un poco oscura, la bolognina non aveva paura. Grazie Gatto con le tue poesie di strada. Comunicazione di servizio, sono usciti già dei libri, delle poesie di strada del Gatto, quindi per chi li volesse li può trovare in giro per la Bolognina, sappiatelo. 25 aprile per me ricorda il 16 marzo, anniversario dell'uccisione di Dax a Milano da parte di dei fascisti. 16 marzo 2003, domenica sera. Alcuni compagni escono da un locale del Ticinese, fuori ad aspettarli tre neofascisti del quartiere armati di lame. Li colpiscono ripetutamente in punti vitali, lasciandone due stesi al suolo. Scatta l'allarme. Nel giro di pochi minuti una decina di compagni arriva sul posto. La situazione appare subito gravissima. L'ambulanza tarda ad arrivare, mentre immediatamente sopraggiungono pattuglie di polizia e carabinieri che ostruiscono la via, bloccando la circolazione e contribuendo a un ulteriore ritardo dei soccorsi. Ancora incerti sulle condizioni dei ragazzi, una quindicina di persone comincia a raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, già pattugliato da alcune volanti. Dopo poco arrivano i rinforzi. Chiudono l'ingresso e danno il via a feroci cariche sia all'interno dell'ospedale che all'esterno. Si apre la caccia all'uomo, inseguimenti e pestaggi al grido di comunisti bastardi, vi ammazziamo tutti. Una decina di compagni vengono gravemente feriti. 40 punti di sutura sul viso, denti rotti, teste aperte, facce sfigurate e sangue dappertutto. Stanotte ogni blocco è riunito, facce dal barrio di ogni città. Un ragazzo, un ribelle, un amico, un fottuto guerriero antifa. La leggenda rimane sul libro, il suo volto è sui muri città. E il dolore rimane scolpito, quando muori abbracciato da un fra. E il dolore diventa più vivo, e dilania chissà la realtà. Non c'è pace per chi l'ha ucciso, per i nazi nessuna pietà. Nessuna pietà per chi usa le lame, contro chi ha le mani nude si sa. La condanna di essere infame, è la strada che ci penserà. Non chiedermi chi è stato il primo, non chiedermi come si fa, non chiedermi chi erano i Beatles, chiedi chi era Davide Dax, chiedilo a chi gli era stato vicino, a chi ora è qua nel nome di Dax, gridalo forte a chi non ha capito cosa vuol dire davvero antifa. Quando muore una grande persona, il cielo brilla una nuova stella, per ricordare la traiettoria a ogni fratello, a ogni sorella, dentro la cella di un penitenziario, su una barella in un pronto soccorso, che nessuno rimane da solo, fino a quanto non è morto. Se la rassegnazione è paura, diventa complicità. Pensare l'impensabile responsabile continua a far vivere Dask. Per combattere la paura devi apprendere il coraggio, sospirare e respirare insieme a tutto l'equipaggio. Hey, Dask vive ancora, Dask suona ancora, il popolo balla, schiaccia la gloria di ogni divisa che fa da padrona, brucia d'amore nel cuore in via Gora. Un po' dentro l'impianto di prega, in un'occupazione a Berlino, in una rivolta in Grecia, sfonda lo scudo di un celerino, blocca la carica, l'arte sommossa, brilla la fiama nella rivolta, fuoco d'amore di vampa nel cuore di chi porta avanti la lotta. Chi trasforma il dolore in azione, come Arcangelo e Mamma Rosa, finché uno solo è presente, Dax è libero e ribelle. Non chiedermi chi è stato il primo, non chiedermi come si fa, non chiedermi chi erano i Beatles, chiedi chi era Davide Dax, chiedilo a chi gli era stato vicino, a chi ora è qua nel nome di Dax, gridalo forte a chi non ha capito cosa vuol dire davvero ti fa. Aban con questo brano, Dax, La notte nera di Milano, veramente La notte nera di Milano, perché i fatti successi intorno all'uccisione di Davide Cesare Dax sono stati veramente gravissimi e importanti da ricordare, come lo ricordano quotidianamente delle partigiane del terzo millennio che combattono la loro quotidianità, la passano combattendo perché sono le madri dei figli uccisi negli omicidi di Stato o uccisi dai fascisti. Ancora oggi succedono questi fatti, e quindi questo collettivo di madri, dove c'è appunto Rosa, la madre di Dax, ma c'è anche Stefania, la madre di Renato Biagetti, c'è la famiglia di Federico Aldrovandi, c'è Heidi Giuliani che, con la quale ho parlato diverse volte, la prima volta che abbiamo parlato di tutto tranne che dell'omicidio di suo figlio Carlo durante il G8, fu ucciso nel 2001 a Genova, e vogliamo ricordare che Carlo Giuliani non era quel ragazzo con l'estintore in mano, ma era il ragazzo a cui hanno sparato. Come vogliamo ricordare che Federico Aldrovandi non era quel ragazzo un po' ubriaco e drogato che girava per un parco di Ferrara in piena notte, ma è stato il ragazzo ucciso a botte da 4 poliziotti, un ragazzo giovane di 18 anni che tornava a casa dopo aver salutato la sua famiglia, sua madre, suo padre, suo fratello, e a casa non ci è mai più tornato perché 4 poliziotti l'hanno ucciso a suon di botte. E vogliamo ricordare anche Renato Biagetti, di 26 anni, ucciso fuori da una festa reggae sul litorale romano da 8 coltellate fasciste. Renato era figlio di Stefania, un'amica, una compagna di una vita. Anche lui a casa non ci è tornato più. Ecco perché queste madri e tutti noi siamo ancora qui a parlare di 25 aprile, a parlare dei partigiani, a parlare dell'antifascismo, perché l'antifascismo è quotidianità in un paese come il nostro più che mai in questo momento, e noi che ci riteniamo e ci sentiamo e vogliamo essere partigiani del terzo millennio andiamo avanti nella nostra lotta quotidiana, quindi buon 25 aprile a tutti. Ma Scott, che dici, sì, sul 25 aprile? Che di qualcosa? Dico sì, e che mi sono acculturata vedendo un film di nome Ci resta solo il crimine, che non spoiler cosa succede perché magari le persone lo vogliono vedere, io come mia natura spoilero sempre, che in pratica parlava di questi ragazzi che, sto già spoilerando ma vabbè, parlava di questi ragazzi che andavano indietro nel tempo per rubare la Mona Lisa durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi c'erano i fascisti, gli antifascisti, i partigiani e poi non mi ricordo niente. Ma tu cosa ne pensi di fascisti, antifascisti e partigiani? Cioè, allora, partigiani c'era il signore della Repubblica, quello buono che sembra silente. Sì, Sandro Pertini, sì. Sì, e poi i cattivi, c'era il Duce che c'era una battuta divertente, è quello con i baffi, che ha i baffi lunghi. No, non aveva i baffi lunghi. Ah, i baffi corti. Ah, ok. Biondi. No, non erano biondi. Marroni. Sì, e si chiamava? Mussolini. No, Mussolini. Hitler. Hitler, grazie. Sì, se per fortuna che si è acculturata. E quelli, Mussolini. Scusa, mascotte, quelli erano i buoni e i cattivi, no, per dire? I cattivi, perché poi dipende se sono cattivi, sì, o cattivissimi. Sì, dipende. Dipende cattivi, cattivissimi, cattivissimissimissimi, okay. Cattivini. E quindi i buoni erano gli partigiani, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano. Fuori dalle mura, non lontano dalla Bologna centrale, che i poveri vuol cacciare, aria si va a dare. Per il suo monumentale, piazze lastricate di sangue, portici che vanno a lacrimare, torri che dalla vergogna vorrebbero cascare, oltre il ponte, al di là della ferrovia, la Bolognina può incontrare, tutti i popoli abbracciare, una festa popolare, dove gioia va a donare. Io il 25 aprile spero che sia il primo giorno in cui presento il mio nuovo libro, che si chiama Soave sangue, silente langue. Tratta di Montesole, dei partigiani, c'è la presenza di Luigi Fontana, il custode morale di Montesole. Vorrei presentarlo proprio davanti a casa di Luigi Fontana, con una presentazione diffusa e diluita tra le 10 di mattina e le 6 di sera. Il 25 aprile ci vuole, nel senso che per noi è 25 aprile sempre, per cui quando tutti gli altri si decidono a festeggiarlo, noi ovviamente ci siamo. Grazie quindi a Paolo Spillaman Ferrandi, in bocca al lupo per il tuo nuovo libro in uscita, grazie al gatto per la sua seconda poesia di strada e grazie anche alla mascotte per le sue valutazioni antifasciste e sui buoni e cattivi, perché i bambini vedono questo, buoni e cattivi. Chi saranno i buoni, chi saranno i cattivi, secondo i bambini di oggi, secondo la mascotte, lo sappiamo. Dalle belle città date al nemico, fuggi monti su per l'aride montagne, cercando libertà. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti. 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Ust Mamò con Siamo i ribelli della montagna. Mara Redeghieri l'hai reinterpretata con il suo stile unico e inconfondibile, quindi la salutiamo nuovamente, nonostante sia stata nostra ospite in trasmissione proprio la settimana scorsa. Noi la risalutiamo perché è un'amica come lei, nella puntata del 25 aprile ci deve essere, quindi ciao Mara, grazie, grazie di esistere. Quando nel nostro studio dici 25 aprile, i nostri musicisti, lo staff musicale di Dedicato, quello che suona live, quello che tutti i giorni suona qua con noi, cioè i nostri fanciulli, rispondono così, rispondono in questo modo e noi possiamo solo sorridere. Quindi grazie al nostro percussionista rumorista, grazie al nostro batterista e al nostro pianista, veramente grazie. Si può fare! Antifascista sempre, no pasaran. Renoitz, Acrobax. 2006-2016, io non dimentico. Se all'inizio erano i solchi dati da una penna sfera, poi parole che dan forma ad un'esistenza intera. Brandelli di memoria nelle menti antifasciste danno quella spinta in più per cui l'animo resiste. Insiste dentro i sogni di chi cambierà il domani, persiste camminando su sentieri partigiani, agisce per abbattere barriere culturali. Io non dimentico, conosco i veri criminali. Hanno le mani armate di intolleranza, si muovono coperti dal buio dell'ignoranza. La danza dell'indifferenza muove passi in maschera e sto in un mare di rabbia solo con questa zattera. Stringo tra le mani punti di domanda come unica certezza che la fine non rimanda. Colpisce dritto al cuore e ciò che è stato chiara come la verità negli occhi di Renato. Questo è per il coraggio di chi ha un cuore solidale, chi con rabbia e con amore riscalda queste strade. Questa va a chi non vuole dimenticare, per chi lascia un messaggio indelebile e mortale. Questo è per il coraggio di chi ha un cuore solidale, chi con rabbia e con amore riscalda queste strade. Questa va a chi non vuole dimenticare, per chi lascia un messaggio indelebile e mortale. Se per Renato erano suoni freddi, sporchi e basilari, li avvolgeva nel calore dei suoi ampli valvolari. Saldature in stagno si legano in un contatto, mentre linee di frequenza esplodono dall'impianto. Mai un passo indietro, mai nessun rimpianto. Non esiste divieto che non può essere infranto. Questo mondo è tetro, ma non sarò altrettanto. Io non dimentico chi mi è sempre stato accanto, chi mi ha dato forza, solidarietà e fiducia, perché l'odio corrode mentre l'amore brucia, scaldando gli animi per un'idea che ci accomuna, scacciando i demoni senza nessuna paura, coscienti della forza che possiamo sprigionare in una lotta perpetua come le onde del mare. Questa è solo una parte di ciò che mi è stato dato, indelebile. come il sogno di Renato. Questo è per il coraggio di chi ha un cuore solidale, chi con rabbia e con amore riscalda queste strade. Questa va a chi non vuole dimenticare, per chi lascia un messaggio indelebile e mortale. Questo è per il coraggio di chi ha un cuore solidale, chi con rabbia e con amore riscalda queste strade. Questa va a chi non vuole dimenticare, per chi lascia un messaggio indelebile e mortale. Alla fine di sti versi gronda solo rabbia e amore, messi insieme sembran solo un gomitolo di storie. Lo stesso unico filo che ci tiene uniti ora, come tessere nel puzzle della memoria, fatto di ricordi che nessuno cancellerà, fatto di risvolti, destino, casualità, fatta andati storti, la fortuna viene e va, io non dimentico il prezzo della libertà. Si paga tutti i giorni. Il Nano, ciao fratello, direttamente da Acrobax Roma, con questo pezzo meraviglioso, Io non dimentico, dedicato a Renato Biagetti. E abbiamo ora le parole della mamma di Renato, Stefania. Grazie per il tuo contributo. È un messaggio bellissimo che ora vi voglio leggere. Questo 25 aprile rinnova con forza e determinazione i principi che hanno mosso la lotta partigiana e non rimargina le ferite di ieri e di oggi prodotte dall'ideologia fascista. In un momento così critico per l'umanità tutta, costretta a subire guerre e genocidi. Con forza ed impeto vi chiedo di lottare sempre per le vostre idee e i vostri sogni nella costruzione di un mondo migliore. Dobbiamo assolutamente mantenere viva la memoria della lotta di liberazione antifascista e di chi è stato ucciso dai vecchi e dai nuovi fascismi. È sconcertante che l'Italia sia stata riconsegnata in mano ad una destra così becera grazie ad un'opposizione incapace di lavorare sui principi fondanti della nostra Costituzione. Come madre di un figlio ucciso da queste idee criminali, vi chiedo mai un passo indietro, con rabbia e con amore. Grazie Stefania, davvero, grazie al Comitato Madri per Roma Città Aperta che quotidianamente si spendono nella lotta antifascista insieme a noi e noi insieme a voi. Quindi buon 25 aprile a tutti, davvero, buon 25 aprile per non dimenticare ma anche per guardare avanti. Ciao a tutti dallo staff di Dedicato e si può fare, davvero.